10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. Hola, hola, hola. Ci tengono molto a dire questa cosa, che loro non sono sardi, sono continentali, capito? E quando dicono andiamo a Porao, dicono andiamo in Sardegna, non dice andiamo a Porao, ma non ricordo come oggi qua, quindi. Perciò è una cosa già vista e vissuta, soprattutto che l'ha già fatto, di ripeto, 22 mesi alla Maddalena. Che prendi? Ok, grazie. Beh, e magari si considerò anche americani, visto considerato che era un paese invaso dagli americani, almeno sino a un po' di tempo fa. Adesso vabbè, hanno smembrato un po' tutto, però ci dovrebbero essere ancora, gli americani ci saranno ancora. Magari hanno smembrato certe attività degli americani stessi, per questo non lo so. Per cui evidentemente si considerano magari americani addirittura o qua. Non c'è più niente, io sono stato un paio d'anni fa, tra l'altro ho passato una bellissima giornata, perché nel fare una passeggiata lì nella piazza ho incontrato, anche se sono grandi adesso, però ho incontrato delle persone che non vedevo da secoli e le ho riconosciute, quindi abbiamo passato una bellissima giornata. Non c'è più niente, Giulia, hanno smantellato lo Basenato, Santo Stefano, non c'è più la base appoggio, c'è ma è miniatura, non c'è più niente, sono case vuote, ma completamente vuote, c'è la parte alta lì verso il faro lì di Coso, non mi ricordo come si chiama. C'erano tutte case, villette bellissime, a schiera, villaggi interi dove abitavano gli americani, c'era una cosa allucinante la Maddalena, c'era un'economia che da paura, soldi a palate veramente. Ovvio, non fammi che si dà gli affetti. Purtroppo sì, purtroppo è così, lo so, quando c'erano gli americani c'era sicuramente più movimento e più economia sicuramente, ma adesso sono andati via o li hanno mandati via, questo non lo so, però hanno lasciato qualche difetto, hanno lasciato nel territorio lì a riguardo di tutto quello che hanno usato, non so, soprattutto il mare eccetera, non so, inquinamento sicuramente ce ne sarà rimasto, non so se hanno pulito adesso bene come si deve, ma senz'altro c'erano delle cose non belle ed è per quelle magari che hanno fatto di tutto per farli andare via e ci sono riusciti. E va bene, andate, adesso ascolto l'ultimo passaggio e poi vado a mangiare perché mi hanno già chiamato, qua avanti. Sì, Giulio, aspettavo appunto che chiedessi anche tu perché è già pronto anche da me, dai. Buon pranzo, buon tutto, buon proseguimento di domenica, della giornata dei Santi, un saluto a casa, buon pranzo, se coincide ci aggiorniamo stasera, intanto io sono a casa, quindi non c'è problema. Ciao Giulio, buon pranzo, saluto anche chi fosse in ascolto qua sul canale 10, ciao ciao. Ok, ciao qua, a stasera, dai, ci sentiamo sicuramente. Alle prossime, ciao, buon pranzo anche a te famiglia, ciao ciao. Ciao Giulio, ciao, alle prossime. Marco, sto provando lo ZG che è fermo da un po'. E beh, hai preso qualcosa? Io ho preso quell'apparecchio là, ho preso, però non so come fare per tararlo. Come devo fare? Te l'ho detto, tanto lì non essendoci tastiera, perché quelli con la tastiera li puoi programmare a mano, lì ci vuole necessariamente il programma adatto e il cavetto per il computer, perché ce ne sono 10.000 diversi, ci vuole quello con i driver giusti, se no il sistema operativo non lo vede, capito? È un po' macello, perciò io ti stavo dicendo di non, gira di non pigliarlo quello. Adesso lo compro questo cavetto, perché non mi funziona, non mi va sul 7, in PMR non ci va. No Anto, sai perché? Quelli quando li compri in Cina li fanno una programmazione forfettaria, praticamente trasmettono sui 462 MHz e quella è frequenza assegnata al Ministero dell'Interno, credo. Frequenze lonfie da non usare, capito? Cioè, quello che ti dicevo io, sì, la UHF, quello fa 400-470, però va programmato in PMR. Cioè, lo puoi programmare quello per le bande amatoriali, che è radioamatore, per roba civile, che fa servizi civili, che poi dovrebbero usare anche loro roba omologata, no? Che fa roba protezione civile, quella roba lì, aziende, oppure anche in PMR si può programmare, però bisogna farlo al computer, se no così non serve a nulla, capito Anto? Adesso devo prenderlo su internet, devo prendere il suo cavadatto a vedere un po', perché se no me ne collegato me ne voto, però pongo in culo mentre lo pongo, perché non va bene così. Eia. Cosa ti volevo dire? Tu che computer hai? Che sistema operativo hai? Windows. Vabbè, fin lì ci arrivavo, ma cos'hai? XP, Windows 7, Windows 10? Non mi ricordo adesso, dovrebbe essere Windows 7, una cosa del genere. C'ho un computer piccolo, un network. Aspetta che tolgo questa schifezza. Sta uscendo bassa questa radio. Non riesco a sentirmi quasi, devo alzare un bel volume. Ci deve essere sicuramente la batteria scarica. Prova, 1, 2, 3, non ne capisco. Levo questo bip puzzinoso, aspetta. A me piaceva, la verità. Cioè, non va bene come computer. Già va bene. Gianfranco, sei tu? Ma non mi riconosci più. Bandito, però neanche io ti riconoscevo, c'è una voce un po' addormentata, anche se chiara, per carità. Diciamo anche Antonio, se non sbaglio, credo. Sì, ero qua, sto tagliando un capo. Sì, sono io. No, forse ho premuto inavvertitamente, sai quando ti si stacca la ricezione, siccome sfiori il PTT, no? Prima ti silenzia la ricezione, poi commuta in trasmissione se premi ancora. Eia. Sì, no, avevo il dubbio che per sentirmi con l'altro baracchino devo alzare un bel volume di ricezione, presumo sia scarica la batteria. Vabbè, questo è un Intec 150 Plus, M150 Plus e un ZG M95. L'ho messo a manetta ma non mi sento poco. Com'è la modulazione? Bassa? La bomba sì, qua. Come va benissimo. Ma dico, è amplificata, perché se no vuol dire la batteria è scarica. Cioè io in realtà lo so già che è scarica, mi pare sia arrivata a 8,4 volt. Questa è di quelle ricaricabili, no? Io la chiamo da 9, ma è 8,4. Quindi quando è così al limite vuol dire che è scarica. Non mi davo l'impressione, però se vai misurata dovrebbe andare bene, ecco. La radio non fa niente di particolare. Eia, sì, praticamente non è nemmeno amplificata quasi, dai. Sto parlando qua tipo 3 dita dal mic, un po' di lato per non sputazzare sopra. Va bene. Sì, la voce è addormentata e tutto il resto anche addormentato. Io sono rimasto in pigiama, tanto non devo uscire, non devo andare da nessuna parte. Domani mi tocca. Come a tutti. Io sono mezzo appuntunato, sto attaccando un PL, un banalissimo PL, se mi è rimasto in mano il calvo, questo del G58 quest'anno. È una cosa esasperante a dire poco, guarda, boh. Avanti, stavate parlando di che cosa? Programmazione, di che cosa? Di qualche satellite. Bisogna cercare qualcuno che lo programmi dalle frequenze che dico io. Ehi, Marco, mi senti? Sì, già lo credo. È la modulazione più forte al momento. E questo c'ha un altoparlantino frontale, non è un granché come timbrica di ricezione la mia, eh. Con l'altoparlante esterno suona meglio sto baracchinetto. Non c'ha nemmeno smitter, Questo proprio non c'ha smitter. Sì, Gianfra, è l'888. Gli ho detto appunto di non usarlo così come lo acquista, perché in Cina lo programmano così forfettariamente sul 462, che non mi ricordo se era assegnato al Ministero dell'Interno o a chi, mi pare dell'Interno però. Quindi lì è off limits. E anche quello è un po' una seccatura, perché sai cos'è? Allora, ci sono tanti cavetti USB, no? Dai più vecchi ai più nuovi. Alcuni hanno dei driver lonfi che non sono prolific, cioè proprio è un altro mondo di driver. In base al sistema operativo devi usare il cavetto adatto, se no il cavetto non viene riconosciuto nemmeno dal computer. È una rottura di balle, io non avrei preso quello, vabbè. Vai Gianfranco. Sì, ciao Luca. Buonasera. Sono quelli per caso monobanda, quelle stanno prendendo 20 euro, credo. Sì, la muraglia 19,91 mi pare, poi chiedo conferma Antonio. Vabbè, da Robotrader 19,92, capito? Completi di auricolare, tutto, base di ricarica, due basi di ricarica che io ricordi. Va bene, però la seccatura che vanno programmati, certe volte ti devi azzuffare con i cavetti, perché io ho tre versioni almeno ne ho visto. Il più vecchio era quello tutto nero, poi hanno iniziato a fare questi cavetti con la serigrafia Baofeng, uno con la base scura e uno con la base più chiara. E uno di questi aveva dei driver mai sentiti, che non era roba prolific, erano altri driver, non ti so dire quali. Neanche io, perché di quegli apparati ci sto, cioè no, quelli che c'ha proprio li ho quasi buttati via. Qualcuno ho regalato, perché sono una disperazione. D'altronde ne danno due, praticamente 10 euro l'uno, cosa poi ci mettono dentro. Una volta avrebbero messo un mattone, solo che sono troppo piccoli per farci un mattone, forse un pochettino di cemento, qualcosa di piccolo. Riprendi Antonio, vediamo se è un finale. Sei tu, sì, Antonio. Il capo adesso noi, c'è anche Luca, c'è. Ma in qualche maniera lo devo programmare, se no è peggio andare al buio, ho comprato una cosa che non serve. Ok, avanti Lu. Luca, ci sei? Forse è allontanato, dai. Che altro dire? Infatti Antu, te l'ho detto mentre andavi, che vanno programmati quelli, mentre quelli con la tastiera puoi fare la programmazione persino da tastiera. Tanto capirai, canali simplex, non devi mettere subtoni, non devi mettere spostamento, non devi mettere niente. La frequenza è buona. E al limite la potenza, la larghezza di wide narrow, che andrebbe messa su un narrow, ma tutti praticamente hanno scelto wide, per me avrei messo FM stretta. Bene, io vi devo lasciare un attimino che vado a bere, ok? Poi se vuole entrare qualcuno, fatelo entrare. Vai Gianfranco. Sì, io sento anche qua, vogliono entrare anche tedeschi, boh. E niente. Sì, riconosco, ma ripeto, non li usavo i primi, ma non Baofeng, il Baofeng, non proprio, sono a noi. Usavo i Volkswagen, che erano un po' più decenti. I Baofeng sono un po' degli apparati così. Boh. C'è anche Luca, se non sbaglio. Luca, ci sei? Luca? Luca no, non riprende. Ti stavo dicendo, No, devo trovare il cavo giusto, dopo su internet lo cerco e ci proviamo a vedere come cazzo bisogna fare. Perché se ci riesco lo metto, lo registro, lo metto a posto. Cioè. Se lo torno a rivendere lo torno. Boh. Sono apparecchi, come si dice? Trovati e lasciati, capito? Non so niente di particolare. Di norma c'hanno un coso di una come si diavolo si chiama, un adattatore di segnale e poi la solita presa doppia con un jack piccolo e un jack grande. Però l'importante è sempre la parte di sopra che si collega all'USB. È un c'è sempre, di lì c'è valido quel detto, no? Che poco spende poco ha. Poi anche come ricezione lascia un tempo che trova, no? Ma ripeto, a quel prezzo dove pretende. Quanti te ne sei preso? 5, sì, perché li davano, c'erano più in cui li davano proprio in a scatoloni. Ah, uno. Sì, ma manco per sogno. Uno ne ha già biliardo e buh. No, no, se va bene va bene, se no lo sto vendendo. A me già c'ho l'altro, ciò che è una bomba. Quello che c'è il frequenzimetro, quello è veramente valido, veramente buono. E quello cos'è? Il Baofeng però è tutto un altro pianeta. È tutto un altro pianeta. Qui c'è buono, altro che. Oddio, la marca, proprio qua la marca, dire che è buono, è un eufemismo quasi. Io ne ho dato due, credo, due B-banda tra l'altro, li ho regalati, facciamo anche da ripetitore, figurati, cioè da, non da ripetitore, da cross band, la banda crociata. Proprio perché non era possibile usarle seriamente. Vabbè. Ah, oh, questo l'altro funziona bene, cavolo. Ma chi sto mi va a mezza gaggata, mi pare a me. Speriamo di trovare il io l'ho anche detto, guarda che qua ci vuole il cavetto. Ma parlare così come usiamo noi, non è così, no. Io non posso parlarci in certe bande. Sapeva manco che esistesse quel cavetto. Scusa, ma che io sappia, il cavetto è sempre insieme a quegli apparati. Ah, cosa? Non vi nenno. Oh, via. C'è l'auricolare, boh. Non ce n'enno. No, Gianfra, non lo danno mai il cavetto assieme, soprattutto i cinesi. Magari i venditori online lo danno anche col cavetto, se lo vuoi. Boh, a me è capitato sempre il contrario, che giustamente c'era sempre il cavetto. A parte quelli grandi, di lì non era nessuno. Ma quelli sono cavetti che costano anche 60 euro, capito? È la terza volta che mi sto da finire che questo cavo me lo faccio di. Ogni tanto ne paghi un pezzo, no? Boh, hanno riuscito a fare un coso di. DRG58 accidenti, vabbè, è così, e poi bisogna vedere se si adatta, perché per quegli apparati chissà qual è il modello, guarda la pesca di cavetto. Sono uscito, sì. Ma la sua si fa vedere già fra buongiorno. Ciao, non ho capito che sei. Sto parlando con Marco e poi c'è Antonio anche. No, sto vedendo da solo. Il lume che la ci ha fatto? 12 euro a goccia. No, da AliExpress lo paghi dai 3-4 euro, dipende dal venditore. Ciao anche a Gianni. Buonasera Marco, buonasera Antonio. Cordialità, ho una settimana di mano e un pugno a capo. Avanti, a tu. Cappa, Anche qua c'è scritto 3,50 euro. Chissà se si trova, però da qualcheduno. Buonasera Gianni. Di che state parlando? Che sono acceso adesso in questo momento. Dimmi tu, di cosa state parlando? Del Baofeng. Ma se ordina su internet, cioè su cosa io me lo faccio ordinare? C'è anche il dischetto, c'è addirittura. E quanto costa questo Baofeng? No, l'apparecchio costa 20 euro, costa. E coso che il capo che mi devo comprare? Antonio, puoi ricevere in PMR? Sì. No, per sapere se arrivi anche. Prova un po', solito canale. Chi è? Giulio è? Sì, già. E che mi dice andare in PMR, va? Non ci capiamo qua, no. Antonio non lo sento io, boh. Vera Giulio, vera. Ma come mai? Capa, forse per fare una prova. Gianni, ci sei? Io sono qua. Era fare una prova, era. Cazzo, mi gira così tanto le balle che ha giubilato una cosa che non funziona, cazzo. Bisogna comprarla. Bisogna comprarlo questo cavo. E fare la programmazione. Ma cosa devi programmare? Baofeng. Ma il mio funziona senza programmarlo, cosa devi programmare? Ma questo che ho preso io, cioè da metterlo nel computer e metterli i canali di qua, capito? Ecco, ecco. È che non ho voglia di alzarmi, non ce l'avrei provato avessi il sentivo. Già pompa ya. L'altro già pompa l'altro. Quello non ce li ha neanche quei canali. Bisogna prenderlo e metterlo nel computer e programmarlo. Ah, e boh. E tu lo sai fare? Non ha già mai fatto, no. Bisogna che qualcuno me lo faccia o non lo so. Ah, boh. No, quello che c'ho io si va direttamente nei canali. E lo so, lo so. Lo so, ce l'hai col frequenzimetro uguale al mio. Col frequenzimetro? No. Come ce l'hai? Piccolino. Non so che piccolino, il tuo cosa c'ha? Il display c'ha. No, non è a display. Allora che l'hanno fatto qualcheduno, l'ha fatto, l'ha programmato, perché non è possibile. Il mio omologato. Cosa entra? Omologato. Non lo so perché ho già. Che marca è? Intec 4040. Ah, beh, grazie. Ticket. Se funziona, beh. Io sto parlando, non funziona qua sui 27, funziona il PMR. Sì, sì, LPD e PMR. Io sono già andato, ma quello lì vuole messo, devo prendergli un capo, devo prenderli e metterlo da computer, riuscire a programmarlo, perché se non lo programmi è un casino. No, già, l'LPD non si può più fare. No. No, ci hanno assegnato solo il PMR, l'LPD è una frequenza secondaria amatoriale. Ce l'hanno tolta, ce l'ho tutti. Non la uso mai. Non ve mai nessuno, l'LPD, sono tutti PMR. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Chiava. Antu, se vuoi provare, lo prendo e ascolto, vediamo se ti ascolto. Là. E quell'altro già va già. Ah, quello è che non va, quello è da programmare. Ah, fa, con l'altro non ci va, manca Ruccio anda. E dove l'hai preso questo da programmare? Su internet? Cinciulli. Cianciuncini si chiama. Gappa, dai, adesso vediamo, se trovo il cappetto già ci riesco, ma così non fai nulla. Bisogna che me lo programmi. Beh, loro li usano dentro, io li ho visti usando di qui. In zona Lonfia, ciao Claudio. Ciao Marco, ciao a tutti, saluta. No, beh, l'LPD non ce l'hanno assegnato, non si può più usare. ci hanno segnato il PMR, noi siamo il PMR, già va bene lo stesso. Il mio è omologato CE, e fa l'EPD e PMR, loro che mi dimostrano il contrario. Io non lo uso, stesso che non si può usare, però ha un'omologazione quella. E anche già un sacco di discorsi si fanno. Tu ci hai omologato, vai e parla e poi ti assumere le tue conseguenze, la sia una fuori. Io ti sto dicendo come sono le cose. Anch'io ho tutte le radio che non ce ne abbiamo alcuna, no, ma c'è, mi metto una faccia nel culo, cosa c'entra? Però non ce li hanno, ma c'è. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma no, ma io sto dicendo, se l'hanno omologato per fare quel tipo di frequenze, vuol dire che si può usare quel tipo di frequenze, capito? Poi ne ho anche altri, non c'è solo quello, ma comunque quello che di cui ti sto parlando ha un'omologazione CE. Andiamo, dove andiamo? Canta? E tu vai la CE e io vado giù la CD. Ma lascia perdere, io sono tutte stronzate. Ciao Lugarie. L'ho recuperato il tassello, cara. L'ho recuperato? No, no, per un'altra staffa. Andiamo, dove andiamo? Domandate un messaggio. No, non l'ho visto, mi sono comunque dormito vedendo le partite. Infatti se ne sono tutto andati e poi mi sono fatto adesso la barba, ho fatto i capelli, tutto per domani. Non ho visto niente, adesso lo prendo il telefono. Vabbè, io mi sono... Cioè siamo andati in campagna a fare due olive, ma proprio due, due, non ce n'erano più da confetto. Ti mando un altro messaggio, aspetta, così se vieni domani. Beh, voi le mie che sono confettate. Tutti ce le abbiamo confettate. C'è quello però che ci sta nel barattolo e quello che non entra nel barattolo. Ciao Luca. Funerà un pulla. Ma se fa dappo, bra, chi c'è buono a dappo e chi c'è gruppo. Dai, riprendi Gianni, riprendi. C'è anche Marco Condor, buonasera, abbiamo fatto tutti e viva il lupo. Quanti di DH1 in 40 metri. Avanti Marco, se vuoi riprendere che vado a prendere il telefono. Eia. Eia. Porca miseria, tutto schermato, ecco, non prende niente. Se abbiamo queste reticelle alle finestre per non far fuggire i gatti, bloccano tutto, pure le onde radio. Anto, adesso mi sono ricordato un'altra cosa, anche più problematica. Quando programmi con le radio, devi andare sulle impostazioni di sistema, invertire il punto con la virgola sulle impostazioni internazionali, perché sul programma dell'888, come spiegarlo in due parole, quella virgola che tu vedi quando lo applicano ovviamente le frequenze non è proprio una virgola, è un simbolo particolare, se non lo riproduci non prende la programmazione, è tutto un casino, Gianfranco forse ha capito cosa intendo. Sì, buonasera Claudio, buonasera agli altri che sono entrati, ero un po' distratto, che oggi proprio sto andando sotto, non riesco a fare un PL e non devo neanche saltare, allucinante. Sì, ognuno ha la sua, Marco, non so da dirti, ripeto, sono anni che non li faccio più gli apparati. Quindi non mi ricordo proprio più niente di quella roba, quindi non posso neanche esserti utile come ricordo, guarda, di quanto sono ricoglionito oggi, per carità. Giornata troppo bella forse dal punto di vista meteo, ha scaldato il cervello e adesso è un pochettino anacquato. Che posso domandare a Pagendi se me lo fa? No, sento. Programmami l'apparecchio. No, non mi dica a me, no, sono buono, mi dico voi. Io ne ho due e me li hanno già dati programmati. Capito? Perché io no, a parte il fatto non c'ho manco computer, quindi. Avanti, ciao a te, Gianfranco, buonasera. Avanti Gianni, riprendi. Non ce l'hai più il computer, Claudio? No, non mi interessa. Io voglio vivere nel mondo mio, non nel mondo che vivono gli altri. È già troppo che uso WhatsApp e il telefonino. c'è un periodo che ci stavo buttando via anche il telefonino, riprendendomi quello vecchio senza WhatsApp e senza nulla, solo a messaggi e a squilli. Figurati se mi metto a computer, tolto tutto, vado a Luca e lo sta, mi pare, non so se l'ha venduto o lo sta vendendo, non lo so, non mi interessa il computer a me. Io su più il telefono, il computer, la verità è. Anch'io Gianni, però non ho magari gli app che avete voi, le applicazioni che avete voi, capito? No, a me non mi interessa. Io vivo in un mondo tutto mio, io odio il telefono, odio il computer, odio un sacco di cose, e quindi ognuno fa quello che vuole. Io sono così e rimango così. Avanti, Marco, ripeto, fai girare che mi ha fatto un messaggio. Eia. Sì, infatti col telefono ormai fai il 90% della roba, 90% se non di più. Il computer è diventato secondario, è più comodo per stampare, per fare cose grafiche con lo schermo grande, che altro dire? Vabbè, lo uso anche per fare quella roba IMSS per mamma, no? Che mi viene più comodo con lo schermo normale, no? E non piccolo piccolo. Vabbè, comunque a Bombolo, in poche parole, gli volevo far sentire l'888, la timbrica, però non c'è, c'ho la ricezione azzerata dal ripetitore cellulare, niente, qua non posso fare niente. Perché tu te l'hai fatto? Sì, io a suo tempo, questi ce l'ho da un po', l'888, proprio quello, l'avevo fatto a suo tempo. E poi una volta mi ha contattato Pomponio per programmargli le due, o più di due, non mi ricordo. Solo che io, come ho dato una radio, l'ho data col cavetto, l'hanno voluta col cavetto. Ed era quel cavetto vecchio che andava bene proprio per quegli apparecchi. La versione tutta nera. Ebbene, non si può comparare questo con i soldi, non si può comprare questo cazzo di cavo e programmarlo. Che cavetto ti serve, Marco? Io ne ho cavetto USB. Allora, è il classico cavetto che va da USB ad attacco Kenwood 2 pin, che sono tutti Baofeng, hanno quell'attacco, tutti tranne quello strano che c'è l'attacco tipo militare con tutti quei contattini tondi, vabbè, non mi ricordo la sigla. Sì, comunque, Kenwood 2 pin, una parola basta per spiegare tutto. Però ricordate che ce ne sono un sacco e i driver sono i più disparati, perché i cinesi, aspetta, abbasso il ricevitore, i cinesi per incasinare tutto hanno fatto anche dei cavetti con dei driver proprietari, non sono prolific, sono driver lonfissimi che non ho mai sentito. E ma lo sai che quanto sangue hanno sputato alcuni utenti? O non li riconosceva il cavetto, o non trovava il driver adatto del cavetto, o non gli leggeva la radio, dove riavviare, provare a fare, prima attivare il programma, poi attivare, accendere l'apparecchio, vabbè, è lungo da spiegare, non lo trovo ai balle. No, non lo so, devo cercare, perché quei cavetti di USB così, poi attacco piccolino, ne ho, non lo so, vediamo, se lo trovo, te lo dico, ok, fate girare, riprendi a tu. Se c'è qualcuno che è benefattore che me lo vuole fare, io lo compro pure, non è un problema. Lo compro pure, se c'è qualcuno che me lo vuole fare, poi gli do quello che gli devo dare, non è un problema. Perché tenerlo così non me ne faccio nulla. Tutto, non lo so, ti ripeto, io ho portato di nome Usula. Avevo un Voxion e l'ho regalato a Luca Flipper, che è venuto a darmi una mano a fare antenne, l'ho dato la 510, un Voxion che c'avevo in più, quindi non ne uso portatili, ne ho due già programmati, ma sono un'altra cosa, non sono giocattoli, o perlomeno qualcuno mi fisce i giocattoli, ma fanno qualcosa in più rispetto a questi Baofeng, a queste stronzate, capito? Quindi non so cosa dirti, non sono all'altezza di dirti, te lo faccio io perché intanto non sono capace. Vai doppio rumo. Ma già ci sarà qualcuno, dai Antu, già lo troviamo qualcuno che lo fa. Capa, ma se me lo fa gli do quello che gli devo dare, non c'è problema. E bisogna trovare anche il capo, giusto? Dico grazie. Tanto Gusti cosa me ne posso? A punirmi nel di dietro. E tu non lo sapevi che voleva sintonizzare? Hanno detto, ma non pensavo che era così cacciato. Ho capito. Vabbè. Magari con c'è poco, però da voi non puoi manco trattarli. Se non li sai usare, se non sei programmato. Vabbè, vediamo se c'è qualcuno che me lo fa, se no ti ricordo da una parte, cosa devo fare? Ma dischetto c'hai? No, te lo prendono insieme col capo. Però io provo a chiedere se qualcuno te lo può fare. Andiamo un po'. Il programma si chiama BF480, bravo, Foxtrot 480, che io ricordi. Che poi una volta che hai il cavo giusto, il programma giusto, perché se no, se metti un programma inadatto ti rende la radio, ti diventa un mattone, capito? Non risponde più ai comandi ed è bloccata. È una fesseria da fare, una mega fesseria da fare. Basta qui invertire il punto, la virgola. Proprio per quel modello in particolare, colpa dei cinesi. Vabbè, dai, se qualcuno riesce a farmelo, dico grazie, non è un problema. Troviamo il capo di quello adatto e via. Prova, ci senti Antonio Riserva, Gianni, magari tu sei più frequente in radio. Se senti Antonio Riserva, diglielo, se è possibile farlo, capito? Lui forse riesce a farlo, non so. Ehi, vabbè, dai. Già entra Antonio, già basta chiederglielo. O lo senti Antonio, lo senti io, glielo chiedo. Sei con la radio normale tu adesso? Io sono col magno. Quindi c'ha più di 10 watt? Sì, ne ha 10 a picchi di 20. No, non si può fare. Quando cambia radio magari ti dico quanto hai aumentato e qui c'è molto più alto. Non è combinato. Cosa tu? È combinato Gianni. E qua è a fondo scala. Vabbè, sta usando il magnum, no, siccome io ho fatto degli accorgimenti sull'antenna, spostamenti e balle varie, ed è molto alta adesso, quindi avete aumentato tutti, volevo vedere il segnale di Gianni, però sta usando la radio che dà più watt del solito, capito? Mi serve quella che usa normalmente. No, che c'è a fondo scala, segnale di Gianni. E ti ho capito, ma non ha nessun significato che sia a fondo scala, lo devo vedere io qua. Che sono lontano, ti ho detto, te l'ho già spiegato, quando siete vicini non è significato dare controlli. Io voglio vedere quanto ha aumentato Gianni, perché hanno aumentato tutti, capito? Anche tu, quindi voglio vedere Gianni quanto ha aumentato. A paio boh, saranno 20, non lo so quanto è a casa tua. Sì, 9, 10 prima sono sì, 9 più 15, quando attacchi lineare sono sì, 9 e 20 anche. 9.10 e 9.15, quindi hai aumentato anche tu di 5 sulla Smitter, come ha aumentato Giulio, come ha aumentato Marco, quello di Gianfranco non l'ho visto, quello di Gianni è oltre il limite perché sta usando una radio un po' diversa, capito, con più watt. K. Avanti Marco. K. Questa radio di adesso forse c'ha pure meno watt del 3009 arriva a 4, questa sarà 3, 3 e mezzo, più il filtro mi ruba potenza e quindi siamo lì. Purtroppo mi si è rovinato il mic originale che ha condensatore, lo spiralato si è tutto disintegrato e quindi sono costretto a usare lo ZG da palmo, quello amplificato. Ma tu attaccato sei Marco adesso? No, ci avrò sì e no 3 watt e mezzo più il filtro, 2 watt e mezzo. Ora! Massimo, massimo. Fa schifo questa radio, però funziona, che te devo dire, non a smitter nemmeno, te la ricordi? Se sei 9.30 qua, No, c'ho anche l'alimentatore piccolo da 7 A, non potrei mettere anche volendo il lineare, dovrei cambiare l'alimentatore, ui per carità. Ciao, mi cazzi un po' carino, dove? Cosa? Adesso sono col Galaxy. facciamo scaldare un pochettino la situazione, che va freddo. Freddo va, va freddo, prova Gianni. Ora sono con il Galaxy, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quello chiuso sempre. Più 5 anche tu Gianni, più 5 sullo smitter, io do il segnale di più 5 sullo smitter. 9.15 adesso sì, 9 più 20 pieno. Sto quanto sto arrivando adesso? Liscio 9.20 pieno lo stesso, si è attaccato, liscio sei 9.15. Va bene, dai. Se Gianni è liscio 9.20, era 9.15, liscio 9.20. Marco era 9.30 ed è 9.35. Il capo, vabbè, Marco è zona più aperta forse, per te. Che più vicino. Per me siete tutti aperti, non fa nessun risultato, io vi vedo tutti e voi siete tutti in basso e siete molto vicini, quindi quando vi chiedete i controlli non serve niente, se li chiedete a me io ve li do giusti, tutti ripeto, 9.10 Antonio liscio e 9.15 sei passato, adesso vai 9.20 pieno quando attacchi e così via tutti gli altri, tutti di 5 avete aumentato. E non è poco. 5 dB sono un bel. E cos'hai detto tu? Attenuato ero 5, adesso attenuato sono 7, non è poco, liscio così, con 10 watt, modo watt 20. Eia, sì, una cosa del genere, comunque si nota. Cioè, basta alzarla, di quanto l'hai alzata in più? Di 6 metri. Vabbè, ah, io credo 2 metri, 3, 6 metri sono un bel. Bene, signori, adesso... Lo sapete, no? È l'ora mia di colazione, quindi. C'era anche Gianfranco, Luca, non so se siano passati in PMR, poi tanto qua si brinca da una frequenza all'altra come niente. Comunque tanto la prova non l'abbiamo potuta fare perché non sento te nemmeno. C'ho col problema del ripetitore cellulare, qua mi azzera i segnali, quindi è inutile fare prove. A malapena è passato Giulio prima, a malapena. Bisognerebbe lasciare il canale e il monitor qua e spostarsi su un altro, perché lui magari chiama, però se c'è, se parliamo tra di noi a Sassari, magari lui non ci sente, sente solo te, e quindi chiama in vano. Al limite ci si fa questa grecca. Non ti preoccupare, non c'è il problema, se entra già lo sento, non c'è il problema, uno spazio o l'altro. Già lo sento, mi arriva a 7 a me, quindi già lo sento, non è che arriva a segnale 1, già lo vedo l'importante. Secondo me ha aumentato anche un po' il QRM, visto l'altezza dell'antenna adesso, è aumentato anche il QRM, non vorrei che le desse fastidio, ho capito tutto qua. E Gianfranco c'è ancora, voglio avere il segnale? Sì, però io sono fatto d'uscita adesso, non posso regolare perché non manco sul vattore. Nell'altra sto prendendo il pulsante. 15 sì. Ho già sentito con un watt, quindi eri 9.10 con un watt, adesso sei 9.15 anche tu, perciò tutti di 5 avete aumentato. Ottimo lavoro, già va bene. E il capo Marco è molto importante, prima era agganciato a 213 quello 1000, quello buono, a doppia carta, centrale rigido. Adesso gli ho agganciato la K1000, capito? Claudio, ma le discese tutte lasciate le altre? Discese io ne ho sempre una, le discese non ne ho io. Le discese io ne ho una e c'ho il commutatore elettronico a 5 su. Il controbox è lì, sono agganciato io. Dalla mantova ci sono 8 metri di cavo che vanno al commutatore elettronico e di discesa ce n'è una sola, 5 agganci puoi fare lì. Ah, ho capito, ce l'hai sul tetto il commutatore? Certo, c'è elettronico, alimentato, è sotto il palo dell'antenna. Ho capito. Vabbè. E le intemperie non lo rovino? No, sono cose strane. Sono commutatori strani da esterno, capito? Il controbox, il comando ce l'ho qua giù, a 5, tutto illuminato, eccetera, con l'alimentazione, con la spina a 2,20, però è a 12, e poi sale il cavo su, che alimenta il relay praticamente. praticamente, capito? Sì, sì, ho capito. Andare. Ah, quindi praticamente sono virtuale il fatto che tu hai attaccato un altro cavo. L'hai cambiato, diciamo, hai fatto il cambio, dai. Sì. Beh, ho usato quello che c'era prima attaccato alle direttive, capito? Io due tanti di Gau, non è che le bucere giocano. E allora ho staccato quello là, l'ho ritirato, l'ho lasciato come sonda, non si sa mai che debba collegare qualche altra antenna diretta. Da solo l'ho lasciato come sonda perché canalizzato. Mi sono collegato alla Romanda, ma ho collegato quello che praticamente era collegato alla 320, 10, 15 e 20. Non me lo lavoro già, te l'ho già spiegato. L'ho fatto per essere fatto bene e eterno, perché la qualificazione che ho, prova di la Luca, vedete, sono pali costosi, molto grossi, con schedula 40, e sono fatti apposta per fare la qualificazione direttiva. Qui, chi mi ha lavorato sai chi è, quindi non è che compra la mondezza. E mi sono messo lì, l'ho fatto sabato mattina. Va bene, comunque avete aumentato tutti i 5, sono contento, eh. Avanti, io quanto ripeti. Capa, a voglia. Anche qua già va bene. Ma ti tirata da dura, mica pigia me. Guarda, è un gioco fare quello, lavorare da me. È un gioco, Luca non ci credeva, i due Luca non ci credevano. Non ci credevamo, è tutto telescopico tu. Ho sceso tutti i pali, 2, 2, 2, altezza di petto, ho staccato, sceso l'altro palo, altezza di petto, scollegato la Mantova intera, presa e messa dentro l'altro tubo. Stretti i cavallotti, stretto tutto, fascettato tutto e poi messi i tiranti perché adesso ci vogliono i tiranti. È una fesseria lavorare da me, Anto, è come che sto lavorando per terra. L'unico problema che avevo è scendere le direttive che erano pesanti, però una volta che le direttive sono tolte dalla qualificazione, il lavoro che ho io è un gioco, lo fai da solo, tranquillo e sereno. Vabbè. Un po' di altezza c'è, però se ti metti bene già non succede niente, non succede. L'altezza non la devi temere, Luca la stava temendo, ha iniziato a fare il video, a girarsi a destra e a sinistra, a vedere paesi, mare, balle e polvere, si è un po' decreduto. No, io non ho problemi all'altezza, Antonio, assolutamente non ho problemi all'altezza. Sono nato qua, quindi avevo 25 anni, ando giù in Tinobi e l'ho sempre buttato sopra il petto, quindi non ne ho problemi. È chiaro che non ti puoi sporgere nel punto più alto, però io nel punto più alto col vuoto giù a Luca gli ho fatto vedere che ci vado vicino, perché lì ho i pali agganciati dei dipoli, quindi li sgancio, li aggancio quando devo fare qualche lavoro e ci devo andare per forza. Lui non si è manco avvicinato, è rimasto a metà del terrazzo, no? E si coricava per terra in ginocchio per vedere, ma aveva molta paura, capito? Se non si è abituato tanto non va bene. Vai Gianni, riprendi, tanto Gianfranco sta saldando. Quello va bene per me che ci sono i più vicini. L'altezza a me mi fa vedere il cappuccino. Aspettate un attimo, vediamo chi è che chiama. Stai provando un QRP portatile, quindi un watt e mezzo. Dove sei, Alghero? Sì, vabbè, segnale 7, radio un po' bassina, comunque riesco a sentirti. Vediamo un po' chi ti ha ascoltato. Marco, hai sentito Roberto D'Alghero in QRP? Negativo, prova a mandarlo avanti di nuovo. L'hai sentito Marco? Nel QRM. No, vabbè, se metto il QRM per lui non ti sente. Gianni, lo senti? Basso, ma già lo sento. Basso, lo sento. E a volte non percepisco manco le parole. A volte sì, a volte no. Hai agganciato il sensato? Ho attaccato per farmi sentire. Ok, ascolta, Gianni l'hai sentito? Non ti ha sentito Gianni, riprova. Roberto, mi ascolti? Ma senti Roberto? Sì, ha risposto, ti ascolto, la radio non è chiara forse. Ha detto che è molto chiara la radio, ti ascolta il segnale 7. Antonio, vediamo un po' se riesci ad ascoltarti Roberto in Alghero con QRP. Cos'è che vuol dire con pochissime watt? È una radio piccola con pochi watt, vai. Attenzione, l'amico Roberto Di Anghero, mi senti? Io lo sento basso, basso, basso, basso, impercepibile. Va bene, l'hai sentito Antonio? Prova, Antonio, che c'erano delle del QRM, prova. Attenzione, mi senti l'amico Di Anghero, K? Beh, è già un buon segno, Robby, è già un buon segno. Segnale 2 molto disturbato, Antonio, però non ti ha sentito. Pure io lo sento, pio. Non lo sento manco Marco, direttamente in questa zona. Se non dà potenza, no, non lo so. Come sta modulando lui? Con qualche antennino? Ti ho spiegato, Antonio, che sta modulando con una radio in QRP. QRP vuol dire una radio piccola con pochi watt, capito? Scappa, avanti! Robè, qua sì, volevi segnare da me, Robè? Robè, la radio mia. Robè la conosce, spinta, è stata sempre spinta. 9.15 ti arrivo con quella lì piccolina. Tu sei 9, un po' più bassino. Segnale 9 perché io sto spingendo con 20 watt e tu sei in QRP e quindi è chiaro che però... Va bene. Ok, cos'hai detto Marco? Io nulla adesso. Ok. Va bene, Gianni, riprendi, dai. Robè, aspetta già, Robè, vuoi rimanere con noi o volevi solo un controllo? Hanno un messaggio, Claudio. Aspetta già, non ho capito, Robè, cos'hai detto? Avete parlato in due e non ho capito niente. Cos'hai detto, Robè? Ok, siamo qua, quando vuoi, Robè, se vuoi affacciare per un altro controllo, siamo qua. Cos'hai detto già? Stavo messaggiando, guarda il messaggio. Non ho capito, ti ho mandato un messaggio, Claudio. Va bene. Ottimo, bella truppa. No, qua arriva molto forte Roberto, anche se in QRP segnale 9. Va benissimo, io non fa testo intanto. Ok, riprendi Marco, fai girare per Antonio, so, chiama Gianfranco, vediamo se si è liberato. Sì, mi sono liberato. Ok, riprendi allora. No, volevo chiedere tutto una cosa. Da voi il QRM quanto è basso, no? Io prima non ne avevo, adesso tirando sull'antenna ce l'ho a 2,5, 3, ma non mi disturba. No, neanche a me, perché io ho tutti i canali occupati, adesso qua sotto sento i grifi ad esempio. C'era anche comunque un altro QSO che ce lo stavo guardando mentre parlavi, ed era sul 20 credo, sicuramente da Sassari, perché il segnale era molto alto. E poi tutti gli altri canali sono una cosa spaventosa, da ieri tedeschi, adesso qua sotto c'è un greco ad esempio. Alghero lo sento basso, basso, basso quando non parlano, però mi arrivano più i greci, è più forti. Guarda, tu figurati, io stamattina ho acceso la radio e c'erano due romeni che parlavano, pensavo che fossero due zingari da Sassari, capito? Anche gli zingari ci hanno messo il baracchino in questi camper, in questi furgoni, cazzo, proprio a 10 erano a venire. Poi stando attento volevo QSB, 9, 10, 9, 8, 7, c'era una cosa allucinante. Erano due romeni che parlavano tra di loro, proprio erano 9, 10 alla grande. Mai lo senti. Sotto invece, dalla 26 in giù, ci sono tutti gli ospedali tedeschi, con i cercapersona e senti il segnale di di e poi da, cioè, ma in FM è tutto, però una cosa veramente formidabile. No, già lo sento questo, già lo sento. Avanti Gianni, riprendi. Ho capito. Sto provando a vedere se riusciamo, dai. Adesso vedo se riesco a fartelo programmare. Beh, vi dico grazie, se c'è qualcuno che me lo fa, dico grazie. Penso di sì. Se lo conosce te lo fa. E avanti, che sta fischiando. Adesso scende. Ho sentito uno basso basso. Ehi, ma preparazione, non ti preoccupare, dobbiamo fischiare nessuno qua. Ma passa a noi un bruscio. È già frusciando Eddo. Vai Marco, lì, riprendi. Ehi, vabbè, sto quasi mangiando, dai. Non so nemmeno di cosa stavate parlando, dai, sono distratto, riprendete voi. Oggi proprio sono ancora in pigiama, non ho combinato niente. Qua preferisco molto meglio domani, c'ho un bel commissione da fare, almeno esco. anzi è meglio uscire questi ultimi giorni, perché qua mi sa che c'è aria di lockdown di nuovo, per carità. Ieri abbiamo fatto la festa di Halloween, come ti maraggio si chiama. E dove l'avete fatta? Casa. E quanti eravate? No, eravamo 5-6, eravamo. Come ti chiama la festa? Lo dico a Conte. Aspetta, come si chiama ancora la festa? Halloween, che marazzucci è? No. Halloween. No. Vi faccio ridere, non dico chi è. Ah. Un signore in PMR reggiamo la festa di Halloween. Halloween. Infatti se ho vinto il ragionetto, prendetevi una misurina e un occhi, per avvesa oggi. Ma è occhi, la zucchetta in voti però, ho fatto una bella cosa, ho messo tutte le luci, cazzo, ma bello però me. Già, per capirci è quello dell'attacco in Pirigna, Quella sì, quella l'ho sentita. È la stessa persona. Oi, va bene, dai, riprendete, dai. Ho sentito Massimiliano sul 20 anche me. Oh, Claudio, ho fatto una spazzolata per vedere, c'è un po' di propagazione, ma tanto è tutto tedeschi in FM, mi sul 30, sul 27. E al tedesco cosa gli vuoi dire? Boh. Vabbè, dai, riprendete voi, io sono stanco. Mi mando in quei ricchi, sì. Che cosa vuol dire il tedesco? Cosa vuol dire? Sei qua, non so cosa dirti, loro parlano, magari sentono anche a noi, però non so. Gianni, prova a chiamare Antonio. Antonio Riserva, se te lo fa quella programmazione. È il cavetto di quelli disgraziati, un 3 più 3, Claudio, di quelli di 3 piccoli di connettori e 3 da 3,5, come conduttori sempre. Quindi un 3 più 3, non un 3 più 2 come input. Infatti c'era qualcosa che non mi andava, perché l'ho visto, non è 3 più 2, 3 più 3 è un Marco. Sì, allora quello si chiama Kenwood 2 pin, cioè i pin, i puntali sono due e ognuno ha 3 contatti. Kenwood 2 pin è di una semplicità estrema quello lì, ce lo trovi dappertutto, anzi è strano che questi cinesi non lo vendano, ma sai perché non lo vendono? Perché, ti spiego, quelli che comprano dal cinese quegli apparecchi, sai cosa fanno? Caricano la batteria, lo accendono, lo mettono, che ne so, sul canale 1 e parlano come fanno i cinesi. Però non sanno che il canale 1 mi pare sia 462-125, con subtono pure, cioè in pieno dalla banda assegnata al Ministero dell'Interno. Solitamente non beccano nessuno, ma il giorno che lo beccano, chi incautamente li usa, perché li usa incautamente, li fanno un bel verbalone. Perciò io Antonio Liedi gliel'ho detto, guarda che non è un apparecchio omologato, cioè non è un PMR omologato, è un apparecchio amatoriale. Lo puoi programmare come PMR, però c'è sempre 2 watt, non sono 5, misurati sono 2, e c'è l'antenna svettabile, quindi non è assolutamente omologato. Gliel'ho detto per la sua sicurezza naturalmente, e non per rompergli le scatole. Va bene, riprendete, dai che c'ho fame. Vai, chi c'è? Gianfranco. Marco, non c'è il sottotono, c'è il primo squadra, basta. Va, Pomponi, ho bruciato tutto, me. Sotto le torre, mi sono tornato. C'è il sottotono, basta. C'è quella parete, gli apparatori, le due in mancanza. E quindi adesso c'è il sottotono, non c'è il sottotono. Occhio Antonè, occhio che rischi di bruciare tutto, c'è un'alternata fortissima e la modulazione è radio 1, incomprensibile quasi. Che dall'altro giorno, ma che pazzesco ci ha rimentato Antonè, non credo che lo di a romperti le balle. Antonio, qua sì. Che la dica? Hai capito questo carretto? Adesso Rob e Gianni, se si mette un po' in movimento. Lo chiama lui, Antonio Riserva, lo chiamo io, non lo so, Gianni. E io stavo parlando con un'altra persona, mi ha detto che non lo conosce, non riesce, ci vuole troppo tempo, se non lo conosci bisogna scaricare il file, bisogna fare un po' di roba. È normale Gianni, ad esempio Marco aveva programmato alcuni corsi, però conosceva sia le radio sia il programma, però se non conosci la radio, il programma che devi scaricare è un casino, certo non è facile. E non fa Marco Condor, aiuto. E sono convinto che Marco se si mette a fare, perché c'ha sempre fame e non attende comunque. Di trovare che su un capo e si fa. Ah già, l'ho detto, è che Marco se si mette già lo fa, perché c'ha sempre fame e non riesce a fare le cose. Poi dopo che mangia è stanco e quindi... Oh. Viene la piocca, pensa alla patata e non riesce a fare più niente. Tutti tutti quelli che ho provato a menadito si programmano. È una fesseria da fare, però ci vuole cavetteria adatta, il programma adatto. Io CIRP non lo uso. A me CIRP, questo programma universale che dovrebbe far tutto, non mi piace. Io uso il programmino specifico per ogni... Anzi, vi dirò di più. Vedi l'UV5R. In base alla versione del firmware dell'UV5R, devi usare un programma per quel firmware. Se sbagli firmware, cioè se sbagli programma perché c'ha il firmware diverso, rischi di briccare la radio, cioè la radio non risponde più a nessun comando, rimane bloccata credo per sempre, non può fare manco il reset. Ecco perché io certe volte non mi pigliavo responsabilità per programmarli, perché se sbaglio un qualcosa la radio diventa un soprammobile, un fermacarte. Addirittura. È capitato. Poi ho letto di una procedura di reset, praticamente la radio non la puoi sbloccare in nessun modo, devi aprirla, devi cortocircuitare due piedini del processore centrale, del microchip, la accendi mentre stai cortocircuitando questi due piedini, allora la radio si resetta di fabbrica. È una rogna, comunque vabbè, se capita, a me non è mai capitato, ovviamente. Andiamo, chiesa! Oh, ma com'è il segnale? Perché sono l'ho smontata, l'antenna l'ho ripiazzata, è sempre lo stesso Marco? O sono calato? Sono senza smitter, Luca. C'ho il Midland, sì, buonanotte, c'ho l'Intac 150, altoparlante frontale ma niente smitter. Gianni, da te è sempre uguale sono. E io sempre fortissimo. No, 10 sei qua, Luca. Ok, da. No, perché non ho capito una cosa, prima nei canali bassi era a coso, a... come si dice? A fondo scala, a rosso più, adesso è 1 e 1 nei canali bassi, A, B, e C, A e B, 1 e 1, tutti i canali. Invece il canale va banda C, banda cittadina, a 1 e 5, bisogna buttarli giù, E poi nel canale alto, canale 45, 1 e 7, 1 e 8. Ho letto, poi c'è anche l'inclinazione del braccetto del radiale dell'antenna. Ce lo vediamo, non ti preoccupare, già la tariamo a perfezione. Sì, la posizione è giusta, perché io l'altra volta quando è venuta Antonio Bombo l'abbiamo registrata, però a seconda come la metti ti salgono, a seconda come la metti ti scendono. Praticamente lo stub, vabbè, il radialino diciamo, praticamente c'è il vede il coso, come si chiama, lo stenditoio. Quanto ho capito non deve vedere niente. Poi non lo so, balla manoletta, balla ti dico. Non ti hanno detto balla, è così. Deve essere libero quel braccettino, già al limite la spostiamo,